diretta, 7:47 minuti, microsuoni, micro sensazioni, quest'oggi con un alternative hip hop. Ma cosa c'entrano queste sonorità con l'hip hop? C'entrano. Ho voluto iniziare con un disco di lavori in remix. In questo caso i più attenti, secondo me i più appassionati di elettronica, avranno riconosciuto. Sono inconfondibili questi suoni, questi beat, questo senso di rifrazione della luce che portano i Boards of Canada per un lavoro di Bone Beat all'interno di una raccolta uscita per la Lex Record intitolata semplicemente Corimb, dove altri musicisti come il post rock dei Mogwai, come il glitch pop di Mogwai, gli stessi Sea Loaded saranno protagonisti nella prossima mini puntata di microsuoni e micro sensazioni, perché in quanto a questa metrica sono stati il gruppo che ha portato più emozione, diciamo così, in maniera seminale per la Anticon Record, etichetta che nasce a Los Angeles in California, come a Los Angeles nasce Brian Charles Ollon, in arte Boom Beat. Soprattutto per gli addetti ai lavori, tanta è stata la passione e la voglia di collaborare che i prodotti in remix sono diventati protagonisti, come quello che stiamo per ascoltare da Lalipuna per More Music, quindi veramente un'intersezione per tutto il mondo. Come label spin-off nascevano, oltre che la famosa già citata Anticon, label come la Warp, che è protagonista per quanto riguarda la sonorità elettronica EDM, crea la Lex Record, che è questa che stiamo ascoltando. La stessa Ninja Tune, invece, molto soul, molto più black per quanto riguarda l'appartenenza di suono, oltre che elettronica, farà la Mush o Mash Record. esoterici, anche come Last Walk Around the Mirror Lake, l'ultima passeggiata sullo specchio del lago, il primo brano che abbiamo ascoltato remixato dai Boards of Canada, or Awaiting an Accident di Lalipuna, anche se il lavoro, come ho detto, è prodotto da Charles Ollon Boom Beep, e come Odd Nosdam, fondatore dei Sea Loaded, con questa luce, ecco, i suoni, nonostante il tappeto ambient ben evidente, evocano una ricerca della luce, nello stesso tempo un aspetto esoterico è molto presente, ma non dimentichiamo che la Anticon, anticonservatore sarebbe l'abbreviazione, con Sea Loaded e altri progetti ha avuto un ruolo fondamentale per quanto riguarda la denuncia e l'impegno sociale. La Anticon, label di cui parleremo magari nella prossima Microsuoni e Microsensazioni. Abbiamo anche il coraggio di Fortet in questo brano che stiamo ascoltando, produttore quanto mai illuminato a proposito di luce, ma soprattutto piacevolmente irregolare, seppur molto complicato come narrazione musicale, ma non solo, come vi ho detto, il post rock di Mogwai per questo lavoro, Lex Record, una raccolta di studio e chiamiamolo ricerca all'interno della narrazione musicale di Boom Beep. Ecco, lui è forte. In attesa della bella stagione con queste mattinate, non nascondo che molte volte il mio risveglio è con questi suoni, proprio perché dopo un'immersione nel buio la ricerca della luce è ben evidente in queste emozioni, in questi percorsi, seppur irregolare e complicato. Fortet aggiunge delle linee di basso e di groove quanto mai evocative. Ricordo che in questo disco per la Lex Record vi è anche un lavoro di Aaron Funk, il pazzo, chiamiamolo così, ma quanto mai lucido, titolare del progetto Venetian Snares. Insomma, c'è veramente di ogni per quanto riguarda la scrittura di Corimb per la Lex Record. Chiudiamo con il post rock di Mogwai, un tappeto sonoro accogliente, avvolgente, con l'eterogeneità dei suoni che hanno portato artisti come Venetian Snares, come Fortet, Lalipuna. Abbiamo ascoltato lavori dei Boards of Canada, i Sea Loaded. Insomma, il lavoro di introduzione che vorrei proporre a proposito di quello che è stato definito, secondo me, in maniera molto così, tagliandolo col macete più che con l'accetta, quello che è un alternative hip hop che nasce nasce in California, siamo agli inizi degli anni 2000, continueremo a parlarne aggiungendo voci in questo caso nella prossima puntata di Microsuoni e Microsensazioni. Grazie per la vostra pazienza quando propongo queste sonorità, ma magari vi aiuteranno o ci aiuteranno a sentire e ad ascoltare nuove proposte all'interno di una playlist. La label Lex Record, la prossima sarà l'Anticon, ma il prossimo appuntamento è a breve ed è con il Moved Groove, con i speciali sui piccoli ma molto grandi. A tra poco. Diretta 7:49 minuti, ho lasciato un po' andare il disco Mirror for Eyes, lo specchio per gli occhi, è il disco di Caural, è un produttore che risponde a nome di Zachary Matheson e lavora, produce o ha lavorato e ha prodotto anche per la Mush o Mash Record, è scritto M-U-S-H, poi l'interpretazione per me è Mush, ma comunque non ne do certezza. Quello che è certo è il beat ambient, la scrittura che prende editing dall'hip hop, che ha un'attenzione anche per l'aspetto strumentale. L'ambient dà grande fascinazione anche ai Boards of Canada, che Boom Bip e Those One, che poi conosceremo nel progetto Loaded, ha avuto nello spazio di remix come co-protagonisti all'interno di queste sonorità. Sonorità che troviamo all'inizio del nuovo millennio, seppur la nascita di questa label è nel 1994-1995 a Cincinnati, nell'Ohio, per poi spostarsi in California. Un hip hop alternativo, anche in maniera molto frettolosa la definivano di hip hop alternativo. Intanto mettiamo assieme altre sonorità con questa scrittura, la formazione, ricordo che tutta la selezione è rigorosamente in vinile, chi stiamo ascoltando è l'incipit del brano di The Opus e poi rientriamo e daremo il giusto spazio anche per quelle che sono le sonorità di un progetto che veramente per questi suoni ha dato innovazione, un grande cambiamento, cioè i Clothed o Loaded. Buon ascolto, a tra poco. Yeah. A quello che stiamo ascoltando come base, cioè Scientific American Strong for the Future, altro disco della Mash Record, abbiamo avuto un assaggio dei Clouded, un progetto dove alcuni artisti come Boom Bip, che abbiamo conosciuto nella Lex Record, Dosu Pan, Sole, che poi saranno collaboratori anche delle Anticon Record, che dalla California hanno portato questa sorta di vocalità particolare, un po' sofferta, sovrapposta, sincopata in una scrittura unica e originale. Intanto vi ringrazio perché queste sonorità è sempre stato, diciamo che non era più il periodo, stiamo parlando dei primi anni 2000, quindi era l'inizio dei depositi della memoria, avevo rallentato l'attività come DJ nei locali, però accidenti, pensavo se potevo in alcuni locali dall'ascolto molto molto attento e particolare poter proporre una playlist con questi suoni, e quindi adesso mi sto un pochettino sfogando grazie a questo spazio sui 103.1 ricavato tra il GR di Radio Popolare, quando non vi è il Last Minute o altre rubriche c'è la possibilità di ascoltare con microsuoni e microsensazioni. Thank you. unico 10 pollici che è uscito. Questo è già un motivo di conversazione e collaborazione con la Anticon californiana. E quindi abbiamo concluso questa nostra piccola rubrica. Grazie di cuore all'ascoltatore, ce ne fossero di persone che offrono queste micro sensazioni. Grazie di cuore. Magari nella prossima puntata arriverà finalmente, ma vi ho voluto accompagnare con la Lex Record, con la Mouche. La Mouche è una collaborazione grazie al produttore Daedalus con la Big Dada, che è la parte, perché poi queste sonorità coinvolsero in maniera molto curiosa, come ho già detto più volte, i Boards of Canada e anche la più affermata Ninja Tune, l'inglese Ninja Tune. Comunque la prossima puntata magari avremo la Anticon, tutta selezione che sto cercando di proporre in vinile. Sono le 8 in punto, ancora un po' di musica dai Clouded o Still Loaded e poi nuovamente in diretta con questa nostra mini rassegna contro il body shaming e contro allo stesso tempo un eccessivo politically correct che ci ha fatto tornare dall'altra parte. Comunque, detto ciò, il Multigroove è imminente, vi auguro un buon ascolto e a tra poco.